L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, il 13 dicembre, sono 7 minuti dopo le 12, siamo in diretta a Radio 24 con lo spazio che dedichiamo ogni settimana all'altra Europa, l'Europa delle possibilità, delle opportunità, delle storie, delle persone. Le coordinate per seguirci anche virtualmente, euronetplus.eu che è il portale di Euronet Plus Network al quale apparteniamo, oppure @FedericoTaddia, i miei account sia su Facebook sia su Twitter, le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Se invece volete contattare la nostra redazione, la mail la conoscete, è l'altraeuropa@radio24.it. Ogni settimana un viaggio, ogni settimana si parla di Europa, ogni settimana si va a scovare quello che l'Europa fa, senza nascondere le criticità, ma cerchiamo di tirar fuori quello che c'è di buono. Oggi partiamo, anzi ripartiamo, come abbiamo fatto tante volte qui all'altra Europa, dai giovani. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth. Al termine di 7 anni di vita, cosa ci ha lasciato il programma Gioventù in Azione? È la domanda che si è posta l'Agenzia Nazionale per i Giovani, che ha voluto mettere a fuoco 35 progetti, 35 storie di successo nate nei 7 anni del programma Gioventù in Azione. È uscita una pubblicazione intitolata Quando i giovani partecipano, storie di successo del programma Gioventù in Azione, pubblicazione disponibile sul sito dell'Agenzia, agenziagiovani.it. Sono storie di creatività, sono storie di innovazione, sono storie di coraggio, sono storie di divergenze varie, 35 bei viaggi, 35 boccate d'ossigeno, 35 stimoli, perché tutto ciò può essere non tanto replicabile, ma può essere lo spunto per partire insieme agli amici, insieme ad associati, insieme ad altre cooperative, insieme ad altre entità, per ideare qualcosa e cercare di concretizzare questo qualcosa grazie ai fondi che ci sono a disposizione. Tra le 35 storie ne abbiamo scelta una, non perché è migliore delle altre, ma ne cercavamo una che fosse così rappresentativa di 35 percorsi comuni. Diamo il benvenuto a Jacopo Ammendola, architetto di Orizzontale, che ha partecipato al progetto Kiwi, questo è il nome. Ciao Jacopo. Ciao, buongiorno. Ho detto bene, vero? Kiwi? Come lo le... Sì, ok. Kiwi, un kit di interazione urbana istantanea, questo è il nome del progetto che si è tenuto a Roma tra l'autunno 2011 e la primavera 2012. Cosa avete combinato? Allora, noi all'epoca eravamo studenti di architettura e avevamo, diciamo, l'interesse a realizzare alcune iniziative sul tema dello spazio pubblico. Sì. E ci interessava molto questo tema, che la città di Roma merita sicuramente una riflessione, perché lo spazio pubblico è, diciamo, molto curato in alcune zone, soprattutto nel centro, ma nella periferia invece spesso presenta dei problemi, e noi, in quanto studenti di architettura, insomma in quanto anche abitanti di queste zone, eravamo interessati a sperimentare delle nuove metodologie di azione e insomma scoprimmo che l'esistenza di questo programma dell'Agenzia Nazionale, e partecipammo con un progetto. E quindi avete, insomma, partecipato e realizzato questo progetto. Di fatto, se non erro, sono stati 3 atti pubblici più un workshop, insomma una presenza attiva con architetti e studenti di architettura presenti sul territorio, con attività molto pratiche, in collaborazione anche con un collettivo di Madrid, dico bene? Sì, esattamente. Nell'ultima fase abbiamo invitato, diciamo, a Roma questo collettivo di Madrid, che ci interessava molto per TXP, si chiama Todo per la Praxis, ci interessava molto per appunto le metodologie che mettevano in atto nella realizzazione di iniziative di progetti nello spazio pubblico e abbiamo collaborato con loro. Come dicevi giustamente te, il progetto appunto si è realizzato in quattro diversi momenti. I primi tre sono state proprio sperimentazioni di un giorno su diversi approcci alla trasformazione dello spazio pubblico, in cui il filo conduttore era la possibilità di cambiare lo spazio pubblico, intervenire sullo spazio urbano con risorse molto limitate. Certo. Il finanziamento che ci aveva concesso appunto l'Agenzia Nazionale era un finanziamento molto piccolo, e noi abbiamo cercato di far tesoro di questa opportunità massimizzando i risultati, sperimentando appunto diverse metodologie, certo, tra cui l'happening, la realizzazione di installazioni, realizzazione di performance. Che tra l'altro credo che sia un valore aggiunto, nel senso che poi l'agenzia, anche adesso col nuovo progetto Erasmus Plus, non arrivano piogge infinite di soldi, erano credo giuste cifre, che insomma sono una sorta di quel fondo che ti permette di avviarti, di avere una base, poi la creatività, poi l'impegno, poi il cercare anche altri finanziamenti è successivo, nel senso che è uno stimolo anche in questo. Orizzontale come collettivo esiste ancora con progetti di riattivazione degli scarti urbani. Tu eri studente, adesso sei architetto. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? È cambiato il tuo sguardo verso l'Europa? Questa è una domanda. Insomma, sicuramente per me è stato molto importante quel momento, è stato importante anche questo riconoscimento istituzionale e quindi appunto il fatto di vincere questo bando e di poter avere l'opportunità di mettere in pratica alcune nostre idee che altrimenti insomma sarebbe stato difficile portare avanti, e per noi quello è stato l'inizio. Diciamo la maggior parte delle persone che facevano parte di quell'iniziativa del 2011 appunto è rimasta insieme, e abbiamo fondato prima un'associazione e poi uno studio di architettura sempre a Pigneto, a Roma, il quartiere in cui appunto si svolgeva il progetto, e cerchiamo di portare avanti appunto lavorando sempre sugli stessi temi. Certo. Il nostro percorso, che sta diventando anche un percorso professionale. Certo, grazie davvero a Jacopo Amendola, orizzontale.org oppure facebook.com/orizzontale, ma questi link li potete trovare anche sui nostri profili in Facebook e account in Facebook e Twitter. Ciao Jacopo, grazie, buon sabato. Ciao anche a te. Un Aeropostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Aeropostit. Culture Ability, spazi di innovazione sociale. Avete nel cassetto un progetto di innovazione culturale e sociale che promuove benessere e sviluppo sostenibile? La Fondazione Unipolis, in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani, ha indetto un bando per iniziative volte a riqualificare aree e luoghi degradati per farne occasioni di crescita culturale e sociale, ma anche di lavoro per i giovani. Il bando, rivolto a organizzazioni non profit e altri soggetti associativi composti in prevalenza da under 35, è disponibile sul sito culturability.org e scade il 28 febbraio 2015. L'altra Europa. So what is whistleblowing? And why do we need it? No matter if you work in the public or the private sector, corruption can occur. Sure. It doesn't happen all the time. But some apples are rotten. And it could be you that comes across something suspicious. You might stumble upon documents that look strange, and you might match them with others that make you think. Quello che state ascoltando è un video promozionale della petizione per una legge europea sulla protezione degli informatori promosso da Freire Network. Oggi, il giorno successivo alla presentazione del nuovo piano anticorruzione del governo presentato ieri dal premier Matteo Renzi, ritorniamo sull'argomento, lo facciamo col nostro sguardo, che è uno sguardo ampliato, uno sguardo oltre confine, uno sguardo che guarda all'Europa, e lo facciamo con Franco Latorre, presidente di Flare, il network europeo promosso da Libera. Buongiorno Latorre, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei Taddei, grazie dell'invito e un saluto a chi ci segue. Una settimana importante perché ancora una volta vi siete fatti sentire al Parlamento europeo in occasione della giornata mondiale contro la corruzione con una domanda precisa, che è questo progetto che avete avviato da un po' di tempo, Restarting the Future. Ci può fotografare la situazione? Cosa avete chiesto? Cosa state ottenendo? Allora, questa petizione Restarting the Future, che è stata firmata da decine e decine di migliaia di cittadini europei, siamo arrivati, abbiamo superato le 150.000 firme, ed è stata sottoscritta anche da decine e decine, in questo caso semplici, di candidati al Parlamento europeo, perché è stata lanciata in occasione delle precedenti elezioni europee. Di questi poi ben 65 ad oggi sono stati eletti, di tutti i gruppi e le nazionalità. Era una petizione che chiedeva innanzitutto la costituzione di un intergruppo parlamentare a livello europeo che si occupasse di corruzione, trasparenza, integrità e lotta al crimine organizzato. Sì. E questo risultato, sono orgoglioso di dirlo, lo abbiamo già portato a casa. L'altro ieri la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari dell'Unione Europea ha approvato la costituzione di questo intergruppo, che nei prossimi giorni vedrà formalmente la nascita e raggrupperà alcuni tra i migliori rappresentanti dei cittadini europei in Parlamento, che da anni si battono perché la lotta alla corruzione e al crimine organizzato, come sapete le due questioni vanno spesso a braccetto, diventi una priorità nell'agenda europea. Al secondo punto, come diceva lei, una direttiva che richiede agli Stati membri di inserire nei propri ordinamenti giuridici una legge a favore di chi denuncia i corrotti nella pubblica amministrazione e nelle aziende private, perché diciamocelo chiaramente, chi denuncia i corrotti ci rimette sempre ad oggi, perché è intimidito, perché spesso subisce ulteriori soprusi, qualche volta viene anche allontanato dal posto di lavoro, gli fanno cambiare mansione, cioè appare sconveniente essere persone oneste. L'introduzione di questa norma, speriamo che il governo lo faccia anche a livello italiano, e se no dovremo aspettare le raccomandazioni dell'Unione Europea per introdurre nel nostro ordinamento anche una legge in tal senso, sarebbe formidabile, perché è giusto aumentare le pene ai corrotti, ma bisogna anche aiutare e sostenere le persone oneste che vogliono denunciare la corruzione. Certo. Come diceva il medico, è meglio prevenire che curare, è meglio prevenire. Corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia, ha detto Don Ciotti, commentando anche i fatti di Roma. Fatti di Roma che sono stati presi come a Bruxelles? Ha avuto qualche reazione parlando con i colleghi o parlando con... Sì, era inevitabile che ce lo ricordassero. Guardi, noi dobbiamo combattere contro due cose, contro le mafie da una parte e contro il pregiudizio. Il pregiudizio di chi, come a Roma per anni, non ha voluto guardare in faccia la realtà e prendere atto che le mafie a Roma esistevano ed operavano, anche autorità dello Stato, fino a poco tempo fa, continuavano a minimizzare la presenza mafiosa a Roma, nonostante sequestri di beni imponenti. E lo stesso accade in Europa. Dobbiamo dirlo con un po' con amarezza che c'è ancora un pregiudizio diffuso a livello di opinione pubblica e anche di rappresentanze istituzionali che considerano la mafia un problema italiano, nonostante che forse qualche giorno fa ce lo ricordiamo, le cronache ci hanno riportato un fatto veramente, diciamo, unico. I fabbricanti di monete false, spesso mafiosi, in questo caso l'Andrangheta in Germania, stampava euro e aveva anche prodotto una banconota che non è un falso perché non esiste in circolazione, 300 euro. Questo insomma è indicativo. Allora ricordiamo libera.it, il sito di Libera, flarenetwork.org invece il sito del network europeo promosso da Libera. Si può ancora firmare la petizione? Certo, si può ancora firmare, anche perché adesso la petizione varrà, come lei ha ricordato, direttamente rivolta al sostegno di questa direttiva. E mi raccomando, non girate la testa dall'altra parte, non chiudete gli occhi. Restartingthefuture.eu il sito per firmare la petizione. Grazie alla Torre, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Europost-it. nuovo portale europeo per le petizioni. Il nuovo portale web del Parlamento europeo per le petizioni è online, riprogettato per consentire ai cittadini di firmare petizioni e seguirne meglio gli sviluppi in Parlamento. Petiport punta a rendere il processo più semplice e trasparente. Tutti i cittadini europei hanno diritto di comunicare le proprie preoccupazioni al Parlamento e con il nuovo portale sarà ancora più facile presentare una petizione, grazie ad una maggiore interattività e facilità d'uso. Per saperne di più, petiport.europarl.europa.eu. Duemilacinquecento le persone coinvolte, 5 paesi partner, le città Napoli, Stoccolma, Bucarest, Bilbao e Parigi, 60 incontri programmati tra workshop e seminari, la nascita di almeno 10 imprese sociali multiculturali. Questi sono i numeri, questi sono gli obiettivi di un progetto europeo, si chiama Dialogue, promuove il multicultural business e parte da Napoli. Con noi c'è Giampaolo Gaudino, presidente del consorzio Core, che è referente in Italia del progetto. Buongiorno Giampaolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a lei. Cosa significa oggi promuovere il business multiculturale? Che cos'è? Ma guarda, la visione del progetto è questo: fare in modo che l'immigrazione non venga vista solo dal punto di vista negativo, ma venga trasformata in opportunità. E ci sembra che l'opportunità faccia ben assonanza con l'impresa, con creare occupazione, mettere insieme la creatività dei giovani, i giovani delle nostre terre, ma i giovani anche che arrivano da altri paesi sulle nostre terre. Questo è quello che ci proponiamo con questo progetto. Quindi l'idea finale è quella di promuovere imprese sociali che vedano l'integrazione tra giovani del territorio e giovani immigrati? Sì, sì, assolutamente. L'idea che diciamo parte dall'assunto che la coesione sociale non è solo un prerequisito per lo sviluppo dei territori, ma è parte integrante dello sviluppo del territorio, dello sviluppo economico del territorio. E pensiamo che portare benefici anche in termini economici alle comunità possa far accogliere meglio, diciamo, anche culturalmente, creare reputazione alle persone che si muovono sui nostri territori in generale. Noi abbiamo organizzato, insomma, una serie di eventi che sono soprattutto culturali ed educativi per preparare anche i territori all'integrazione, all'accoglienza, ma puntiamo tantissimo sulla creazione di queste aziende multiculturali. Abbiamo già messo in campo dei seminari a Napoli, come sono stati messi anche, come diceva prima, in altre città d'Europa, e già alcune idee, diciamo, che sono percorribili e alle quali stiamo già lavorando per vedere la sostenibilità, si stanno facendo largo. Ne cito una, insomma, sì, quella più semplice e banale. Alcuni giovani nigeriani insieme a dei napoletani hanno pensato, diciamo, sul nostro territorio ad una macelleria che diciamo pensasse alla macellazione anche con i metodi musulmani e quindi rendesse possibile la fruizione, diciamo, del punto vendita a più culture. Certo. E giovani dai 18 ai 35 anni sono loro invitati a questi 12 seminari, alcuni ancora in programma perché tutto termina entro aprile 2014. Dialogue, linetaproject.eu è il sito ufficiale del progetto, consorziocore.org invece il referente italiano, appunto, a Napoli. Grazie Giampaolo, buon lavoro. Grazie. Adesso un Europostit e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europostit. Volontariato all'estero. Aperto il bando per i giovani emiliani. Hai tra i 18 e i 30 anni e studi o lavori in Emilia-Romagna? Il Centro Europe Direct Emilia offre la possibilità di partecipare al servizio volontario europeo in uno dei 33 paesi del vecchio continente che aderiscono al programma. I giovani volontari saranno impiegati per un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi in attività socialmente utili in ambito artistico, culturale e comunicativo. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata unicamente per email entro le ore 12 di mercoledì 17 dicembre all'indirizzo europedirect@crpa.it. Tutte le informazioni all'indirizzo europedirect-emilia.eu. L'altra Europa. Oh, the spaceship somewhere sailing across an empty sea. This time tomorrow, what will we know? Will we still be here watching an in-flight movie show? Sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, sui miei account personali Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24. Lì trovate i link, lì potete ritrovare poi tutti i riferimenti durante la settimana, gli argomenti che abbiamo toccato, di cui abbiamo parlato, oppure ci trovate anche sulla nostra mail, potete scriverci all'altraeuropa@radio24.it. Sto prendendo tempo perché l'ospite è al telefono, nel senso che stiamo trovando occupato per parlare con Riccardo Luna. Perché? Perché il 18 dicembre a Bruxelles, pochi istanti prima dell'ultimo Consiglio europeo della presidenza italiana, si tiene questo evento, raccontare l'innovazione in 90 minuti, il digital champion italiano, cioè Riccardo Luna ha accettato questa sfida. In 6 mesi non cambia l'Italia, in 90 minuti non si può raccontare quello che ha fatto l'Italia in quest'anno con alcuni dei suoi protagonisti. Si va da Stefano Boeri, il suo grattacielo nominato come il più bello del mondo, Fabiola Giannotti, la neo direttrice del CERN, Matteo Lai, Giorgio Motta, Carlo Ratti, insomma alcune delle eccellenze italiane convocate per raccontarsi, per raccontare, per offrire una sorta di istantanea di quella che è l'Italia, di quello che sta diventando l'Italia. Riccardo Luna ha accettato la sfida, l'ha messa in piedi anche nel giro di poche settimane, quando si sono reso conto che sarebbe stato tra 14 anni il prossimo semestre guida europea, quindi era meglio correre perché l'innovazione è anche questa. Ciao Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Eccomi, buongiorno, ben ritrovati. E insomma, andrete a raccontare un'altra Italia, poco nota, poco conosciuta, è una sorta di biglietto da visita di quella che l'Italia è. Ma sai, fuori viene percepito come il paese del deficit, chiede la flessibilità, che non rispetta i parametri, che ha dei problemi a fare le riforme, e questo sicuramente è un pezzo dell'immagine che probabilmente esiste, ma c'è un altro pezzo di paese che in realtà sta investendo tantissimo sull'innovazione e ottenendo dei risultati a livello internazionale straordinari. Cioè, mentre questo semestre veniva raccontato come appunto il semestre delle liti sul bilancio e la legge di stabilità, per esempio per la prima volta l'Italia mandava un'astronauta donna nello spazio, che è Samantha Cristoforetti. Per la prima volta una donna è la guida del CERN di Ginevra, dove è stato il posto dove venne inventato il World Wide Web, ed è Fabiola Giannotti. Cioè, ci sono un sacco di prime volte, di risultati straordinari che raccontano del talento e della capacità degli italiani di imporsi scommettendo sulla cosa più importante che abbiamo, che è il nostro capitale umano, la nostra intelligenza e la nostra capacità di realizzare delle cose fantastiche. E tutto l'indotto culturale, perché dietro a Samantha, dietro a Fabiola c'è poi un mondo di altri italiani, di giovani ricercatori. Sì, soltanto al CERN che ci sono 1300 scienziati italiani a Ginevra. Il fatto che Fabiola Giannotti oggi guidi questa impresa, devo dire, la mette nel solco di un'altra grandissima scienziata che è stata Rita Levi-Montalcini, e devo dire ne possiamo soltanto essere fieri. Tra l'altro Fabiola Giannotti non può fisicamente il 18 essere con noi, il 17 vado a Ginevra a registrare con lei un'intervista che il 18 trasmetteremo dal Teatro Beaux-Arts di Bruxelles. E quel giorno abbiamo deciso di raccontare l'Italia come una partita di calcio, cioè abbiamo preso 90 minuti, quindi un tempo, diciamo, abbastanza limitato, e nel tempo di una partita di calcio raccontare per esempio il fatto che quest'anno Arduino, che è la piattaforma open source inventata da Massimo Banzi, è entrata con il titolo di capolavoro al museo più importante di arte moderna del mondo, è quello di New York, cioè nella collezione permanente del MoMA ci sta Arduino inventata 10 anni fa da Massimo Banzi Ivrea. Oppure che una startup che ha fatto un braccialetto per curare l'epilessia che si chiama Empatica, quest'anno è stata finanziata con 2 milioni di dollari dagli Stati Uniti e supportata dall'MIT di Boston, e oggi è probabilmente il prodotto più promettente sul mercato medicale. Anche questa fatta da un ragazzo, si chiama Matteo Lai, partito da Cagliari qualche anno fa, nessuno scommetteva su di lui ha insistito e ha vinto la partita. Ci sono tantissime storie di questo tipo che secondo me vale la pena di portare. Il più giovane che portiamo in scena al Bazar è un ragazzo di 23 anni che si chiama Davide Dattoli, che ha creato la più grande rete europea di spazi di coworking. Si chiamano Talent Garden, lui si chiama Davide Dattoli e appunto ha appena 23 anni. 15 Talent Garden in un paio d'anni aperti in tutta Europa. Una partita, 90 minuti, Riccardo Luna un po' l'allenatore, poi ci sarà bisogno del terzo tempo, che è quello che succede dal semestre in poi, giusto? Ma io credo, lo dico spesso, che l'unico vero job sack possibile per questo paese è ricominciare a scommettere sull'innovazione e il capitale umano. Lo dico spesso che dobbiamo ricominciare ad avere quel atteggiamento che avevamo negli anni 60, quando il maestro Manzi insegnava agli italiani a leggere e scrivere, e tanti aspiranti imprenditori aprivano una fabbrichetta con la quale poi avrebbero costruito quello che è diventato il Made in Italy. Ecco, dobbiamo ricominciare a scommettere su di noi. Siamo diventati per tanti anni schiavi psicologici del fatto del posto fisso, dell'occupazione fissa, del posto in banca, del posto del ministero. Ecco, quel mondo purtroppo, per fortuna, non c'è più, però il mondo nuovo è davvero un mondo che è costruito a misura del talento degli italiani. Dobbiamo ricominciare a credere in noi stessi, con umiltà a studiare, perché abbiamo, bisogna dirlo, in questo momento quello che viene chiamato un divario digitale molto importante, cioè un deficit di competenze quando si parla di argomenti come la rete, i social media, il coding, che francamente va colmato. Ma ricominciando a studiare possiamo davvero essere ancora un paese fantastico, come dimostrano appunto le 10 storie che portiamo in scena a Bruxelles. Italian Innovation Day 2014, scoprire l'Italia in 90 minuti, il 18 dicembre, digitalchampions.it per tutte le informazioni. Grazie Riccardo, buona partita. Grazie a voi, ciao. Grazie. Ciao, ciao, buon sabato. Europost-it. ePale, la piattaforma web per gli adulti in Europa. Volete essere sempre aggiornati sui corsi di formazione, i seminari e le altre opportunità disponibili in Europa? L'ultima versione della piattaforma ePale fa al caso vostro. La community multilingue aperta e finanziata dalla Commissione Europea è dedicata a migliorare la qualità dell'offerta di apprendimento per gli adulti in Europa. Grazie a ePale potrete ricevere informazioni sugli eventi, i corsi di vostro interesse e tutte le novità relative ai vostri bisogni educativi. Per saperne di più, visitate il sito ec.europa.eu/ePale/IT. I am a cinematographer. I am a cinematographer. I am a cinematographer. And I walked away from New York City. And I walked away from everything that's good. Tante volte qui all'altra Europa abbiamo evidenziato la necessità di trovare nuove forme per raccontare, per narrare questa Europa. Una nuova narrazione dell'Europa può, deve passare anche attraverso il cinema, e abbiamo quindi il piacere di avere con noi Andrea Rocco, direttore di Genova Liguria Film Commission, unico italiano eletto nel consiglio direttivo dell'European Film Commission Network, e seguirà appunto in particolare i progetti europei. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Quanto il cinema oggi può essere utile per raccontare l'Europa? Ma credo che sia molto utile. Sono al di là delle illusioni, per esempio il nostro sistema di film commission, che si è diffuso in Europa non tanto tempo fa, diciamo una decina, quindicina d'anni, tra 10-15 anni fa, ha ormai una rete di un centinaio di film commission, e tutte queste raccontano l'Europa attraverso le storie, attraverso soprattutto la valorizzazione dei territori di ripresa. Uh-huh. È un aspetto importante, nel senso che ci sono soprattutto a livello regionale delle film commission che valorizzano i luoghi, li fanno vedere, valorizzano le risorse locali e quindi credo che sia un contributo un po' inusuale a a una narrazione dell'Europa. Assolutamente, ricordiamo che le film commission sono organizzazioni finanziate dalle istituzioni locali che operano nell'interesse del territorio, proprio aiutando a sviluppare prodotti audiovisivi ambientati in tale territorio. Esatto. Il network è proprio una di quelle che sembra quasi paradossale, no? Però giustamente voi raccontate l'Europa attraverso le mille differenze, valorizzando le sfumature, che credo che sia il modo migliore poi per raccontare questo percorso comune, perché l'idea è proprio quella di far vedere le tante differenze, i tanti territori, le tante realtà locali. E soprattutto anche di uscire dai percorsi usuali. Uno dei lavori della Film Commission è proprio quello di proporre a chi deve realizzare dei film, delle location che non siano le cartoline abituali, ma che siano luoghi inusuali, luoghi che hanno però dei contenuti di storia, di cultura, di tradizione. Ecco, tutto questo è un po' il compito è un po' l'indirizzo che fa la Film Commission quando si interfaccia con una produzione, che magari arriva con un'idea e poi ne realizza un'altra proprio perché riesce attraverso la Film Commission a trovare delle localizzazioni per le riprese che sono un po' fuori schema, diciamo. Mm-hmm. Insomma, un ruolo prestigioso, complimenti, insomma, anche impegnativo. Avrai sicuramente una tua agenda all'ordine del giorno per questo mandato. Qual è il primo obiettivo che vuoi raggiungere o che ti poni? Ma guarda, il primo obiettivo è sicuramente quello di interfacciarsi un po' con l'Europa, di trovare dei programmi europei che sappiano, che siano utilizzabili, dei progetti che siano utilizzabili anche dalla rete delle Film Commission, e quindi cosa che non abbiamo ancora fatto finora. E poi di ispirare le Film Commission a utilizzare proprio quegli strumenti, quella cassetta degli attrezzi che esiste in Europa e che spesso le Film Commission non usano. Noi in questo senso, come Film Commission di Genova, non è un vanto, ma è un dato di fatto, siamo la prima e credo unica Film Commission che gestisce direttamente in prima persona un progetto europeo che si chiama Maya Workshop, che è un programma di formazione dedicato ai giovani produttori europei. Abbiamo ragazzi giovani che stanno intraprendendo la carriera di produttori che arrivano da 22 paesi europei. Spero che questa nostra esperienza sia una buona pratica che mettiamo al servizio anche di altri, in modo che se ne servano, utilizzino i progetti europei al meglio. EUFCN.net, il sito ufficiale del network. Grazie davvero Andrea, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Speciale 18-25 di Fotografia Europea 2014. Riparte la quinta edizione del progetto fotografico rivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni, promosso dal Comune di Reggio Emilia e che in 4 anni ha appassionato più di 200 ragazzi. I 70 giovani iscritti si impegneranno in un percorso lungo 5 mesi verso la creazione di una mostra collettiva sul tema di Fotografia Europea 2015 Effetto Terra. Il corso è aperto ai ragazzi nati tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996 e porterà alla realizzazione di un progetto fotografico. Gli scatti saranno poi esposti in uno spazio prestigioso all'interno dell'edizione 2015 del Festival. Per partecipare è necessario inviare il modulo di partecipazione a maria.montanari@municipio.re.it entro e non oltre il 21 dicembre 2014, specificando nell'oggetto speciale 18-25. Per tutte le informazioni, fotografiaeuropea.it. L'altra Europa. Credevo fossi andata a riposare. E infatti lo sto facendo. Boh, io di solito per riposare dormo, tipo, cose così. E io mi rilasso così. Ci sta. Comunque, bravo. Hai fatto un miracolo su quel bambino. Che figurati. Quello che state ascoltando è un dialogo tratto da un film, si chiama Eddie, un film molto bello, un film scelto, è un film diventato il film ufficiale dei diritti umani per il 2015 del Consiglio d'Europa, film che ha ricevuto anche proprio in questi giorni il sostegno ufficiale del Premier Renzi, del Consiglio dei Ministri, film che verrà proiettato in tutta Europa proprio per la sua forza dirompente per lanciare, rilanciare il tema dei diritti. Film scritto da Simone, scritto e diretto da Simone Borelli, che è qua con noi. Ciao Simone. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora Simone, non è facile presentarti, tu sei attore, sei cantautore, sei multitasking, insomma. E credo tu sia molto orgoglioso di quello che sei riuscito a fare, perché è un film che avevi dentro, un film per il quale ti sei speso molto e un film che adesso ha ricevuto dei riconoscimenti importanti. Che cos'è Eddie? Beh, Eddie è un progetto, è stato un progetto sin da subito molto ambizioso, sicuramente è stata una scommessa finora vinta, poi insomma vedremo il riscontro con il pubblico dal 2015 in poi, gireremo un po' le capitali di Stato europee grazie a questo riconoscimento del Consiglio d'Europa, però fondamentalmente è il risultato di un lavoro fatto con tanto amore, prima di tante altre cose, insomma, dal punto di vista artistico. Tratta di un giovane medico italiano, chirurgo, che va in un parte volontario in un ospedale da campo in Siria, in cui incontrerà una realtà molto difficile. In un momento in cui lui sta per diventare padre, si trova in questo bivio professionale e di vita privata, incontra insomma questa realtà siriana che noi sappiamo benissimo, soprattutto in questo momento, non è facilissima. Tutto qui, insomma. Ecco. Quindi hai toccato argomenti importanti, argomenti anche scomodi. Qual è stata secondo te la cosa che è piaciuta, perché il Consiglio d'Europa ha voluto fare suo questo film? Ma credo era partito da il progetto nacque da un'idea di trattare il tema della violenza sui minori, che un po' era il tema che il Consiglio d'Europa trattava il 2014. Probabilmente una serie di, io non ho trattato solo quello, ho trattato una serie di temi, come dire, molto attinenti e correlati a questo tema, come insomma quello dei medici volontari che vanno in questi ospedali da campo a sostenere delle cause molto spesso che non hanno i riflettori puntati, questa è una cosa che ci tengo a dire soprattutto, e forse è stata anche questa la forza che molte istituzioni, molte ONG come UNICEF, Medici Senza Frontiere, hanno deciso di sostenere questo progetto, perché probabilmente la forza era hanno sentito, come dire, la possibilità di avere un riflettore puntato in una tematica che normalmente non li ha. E poi una cosa importante, una cosa che accadde quando venne presentato a Strasburgo dal membro italiano questa idea di realizzare questa pellicola, molti stati, molti capi di stato, molte delegazioni si sono alzati in piedi per sostenere questo progetto, comunicando che era, per loro era molto bello, tipo il primo ministro della Turchia si alzò in piedi, andò dal membro dell'Unione italiano a fare i complimenti per aver trattato una tematica così attuale, così vicina a loro. Quindi questa era una cosa che ci ha reso molto orgogliosi. Poi da lì, insomma, il Consiglio d'Europa credo che abbia visto tutti questi temi trattati un po' con grande amore, probabilmente l'ha fatto suo anche per questo motivo. Il film verrà sottotitolato in una decina di lingue, sarà proiettato nei 47 paesi europei membri del Consiglio d'Europa, l'uscita è prevista nel 2015. Tu sei giovane ma hai già una bellissima e diversificata carriera, cosa significa imbarcarsi in un'avventura del genere? In generale, beh, insomma, è un po' una missione. riuscire a farlo, io credo che riuscire a farlo con dei progetti propri, riuscire a incanalarsi in dei discorsi scritti completamente da se stessi, dei progetti in cui ti investono a 360 gradi sia come artista, quindi interprete, sia come autore, è un punto del percorso che è arrivato nella mia vita adesso, ho 29 anni, ho fatto molto spesso, soprattutto l'attore e il musicista, ho fatto tutte queste arti in maniera separata, adesso stanno confluendo in un solo, in una sola direzione, e credo che comunque possa essere, la mia esperienza mi porta a dire che è una cosa soddisfacente a livelli molto alti, quindi è una cosa molto bella riuscire a farlo, e poi per un giovane credo, cioè, possa essere un esempio, come noi giovani non abbiamo in questo momento, che si dice grande crisi, certo, probabilmente possa essere un modo e un motivo per riuscire a investire nel nostro futuro, crederci veramente, che è molto difficile. Prima parlavamo dei mille territori dell'Europa come set cinematografici, tu la tua Siria l'hai trovata in Calabria dal punto di vista della location, vero? Sì, l'ho trovata in Calabria, io sono di origine, sono nato a Crotone, sono calabrese, nel momento in cui dovevamo girare insomma questa pellicola era molto difficile andare in Siria in questo momento a poter girare, quindi era un po' incosciente, e sì, in provincia di Reggio Calabria, questo luogo splendido, una location, appena l'ho vista ho detto wow, sembra veramente la Siria, e probabilmente loro, chi l'ha visto insomma, chi l'ha eletto, gli ha dato questa nomina ufficiale, probabilmente ha riconosciuto la Siria anche nel nostro pezzo di Calabria, quindi probabilmente per me è stato fantastico dire che poi fondamentalmente, curiosità delle curiosità, io in Siria non ho mai avuto la possibilità di andarci, quindi ho studiato tantissimo le location, il posto, il luogo, poi quando ho trovato questo posto ho detto io credo sia questo, quindi essere riuscito a rimandare, a dare questa risposta, certo, è quello. Grazie davvero a Simone Borelli, grazie Simone a Borelli, se volete cercarlo su Twitter. Questo era Eddie, grazie davvero, ciao e buon sabato. Questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Daniele Buonamici e Giorgio De Luca oggi in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Erghini che con me hanno scritto la puntata, Pietro Lacorte invece ha giocato con i tasti. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.